Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. La mia voce. La mia voce. Chiave d'identità. Impronta sonora. Unica ed irripetibile come un'iride di vibrazioni. Come un'iride di vibrazioni. Un filamento di DNA che si muove nell'aria, in grado di descrivermi e al tempo stesso di richiamare nella memoria comune i tratti più distintivi di ciò che sono. Un ritratto appoggiato su invisibili onde. Un ritratto appoggiato su invisibili onde. Ma non sempre la nostra voce ci appartiene. A volte racconta qualcosa che non siamo, come nel detto, bella voce, figa atroce. Altre, più semplicemente, è concessa a noleggio, prestata a qualcosa o a qualcuno per svolgere una funzione. Siri, Alexa, l'utente non è raggiungibile. E infine, come incredibile forma d'arte, ad una delle più grandi eccellenze italiane, quella del doppiaggio. Quella del doppiaggio. Nel paese che annaspa nella Pennies on the Table da Scuola dell'Obbligo, il sottotitolo è una condanna a morte. Ma le dinastie di doppiatori che per quasi 100 anni hanno donato la voce ai miti d'oltremare hanno reso possibile il miracolo di Hollywood. E continuano a farlo tuttora. E continuano a farlo tuttora. Oggi ne incontriamo alcuni, scarrellando fra personaggi e protagonisti che a quelle voci hanno sovrapposto la faccia, le storie, le leggende. Comprate i popcorn e riordinate i ricordi. Polaroid vi porta al cinema. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Infinite metamorfosi. Le maschere di Francesco Pannofino. Sono le 9 e tutti i barbogi del pianeta seduti sul sofà sorbiscono Sherry, mentre quelli che amano il rock ed il roll sono pronti a rockare e a rolleggiare ancora una volta. Siete su Radio Rock e io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia, all'estasi e al rock all day and all of the night. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you.

fine puoi combattere un conflitto con te stesso, più piccolo, circoscritto, interiore, quello con il volto di Dustin Hoffman e il mostro di una malattia, l'autismo di Rayman. Lo sto chiedendo a te, chi è in prima? Il nome di quel tipo? Il nome di chi? Sì, avanti, libero. Chi? Il tipo in prima? Chi? Quello in prima base. La moglie di chi? Sì. Dopotutto lui se li guadagna. Cioè chi? Proprio chi? Sto solo cercando di sapere qual è il tipo che gioca in prima base. No, no, qual è in seconda base? Non ti sto chiedendo chi è in seconda, chi è in prima. Ecco cosa voglio sapere. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Як же маєш? Questo è Polaroid. Programma con poca fica, ma tanta musica. Uova, uova. Violenti, deviati e sociopatici. Il bestiario di Ferruccio Amendola. A 19 anni dalla sua scomparsa, il mito di Ferruccio Amendola è ancora impossibile da raggiungere, perché le storie che ci ha raccontato, con la sua voce, con la sua anima, non si possono raggiungere con ponti o strade. Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Leggende, l'Olimpo di Luca Ward. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Non di lì,